as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo sempre qui a Il Pane e Rose, Radio Città Fucico 103.1. Ricordo a tutti che potete ascoltarci anche in podcast sulla pagina del Pane e Rose. Oggi puntata diversa, dedicata all'arte, dedicata alla musica. In questo caso abbiamo intervistato un amico, un compagno, un mio paesano, il rapper abruzzese per eccellenza, Andrea Martelli, in arte Cuba Cabal. Il 26 marzo, dopo la manifestazione, siamo andati al Tank di Bologna ad ascoltare un suo concerto. Dopo un festival, ne è valsa la pena. Abbiamo intervistato, ci ha concesso un'intervista lunga che adesso ascolterete dopo un bellissimo pezzo. Abbiamo intervistato, lo capirete da quello che dirà nell'intervista. Il Pane e Rose intervista compagni, militanti, artisti che hanno qualcosa da dire per quanto riguarda le nostre tematiche oggi: lavoro, guerra e ambiente. Ci sentiamo dopo. Sentitevi l'intervista e la musica che ascolterete, che è davvero bella. La rabbia che appesta, l'odio che infesta, grida vendetta sociale globale, la protesta. solo per schiavitù. Stile barocco in un mondo tarocco, giobbato lo sciocco, venti di guerra su teste dure come noci di cocco. Allora, siamo qui al Tank di Bologna. Stasera è per la puntata Artisti di Strada. Chiaramente stasera c'è Andrea Martelli, in arte Cuba Cabal, amico di vecchia data, ormai ci conosciamo da 30 anni. Non potevo mancare al suo concerto, soprattutto ne approfittiamo sinceramente per parlare un po' con lui, perché ho tante domande da farti, Andrea. C'è un sacco di cose che ti vorrei chiedere, soprattutto in questo periodo, visto la tua storia, visto la tua militanza musicale ma anche politica come compagno e tutto quello che hai passato. Ti volevo chiedere innanzitutto come stai, come sta andando e cosa stai facendo adesso musicalmente. Diciamo che sto bene, a parte una pandemia e una quasi terza guerra mondiale, diciamo che va tutto bene. Poi si fa quel che si può ai giorni d'oggi. Ma musicalmente, insomma, musicalmente diciamo che anche il fatto di questo lockdown comunque mamma ha fatto in modo che sono stato chiuso, quindi ho scritto parecchio. Sto preparando un disco nuovo, robe nuove che penso estate autunno uscirà. Che è stato tutto, diciamo, questo periodo di lockdown, di chiusura, dove ho avuto il tempo soprattutto di dedicarmi a questi cataclismi. E lo so, infatti noi aspettiamo come tuoi amici, come tuoi fan, come tuoi compagni le prossime opere. Diciamo che anche quello che hai fatto ultimamente, l'ultimo concerto che sono venuto prima del lockdown, se ti ricordi, c'è tante cose interessanti, mi sono piaciuti tanti temi, anche lì comunque quasi profetico, perché anche gli ultimi pezzi che hai fatto è come se preannunciavi un po', sì, quello che sarebbe accaduto. Infatti poi metteremo qualche pezzo in cui, che sono prima del lockdown e prima della catastrofe che stiamo vivendo oggi, che comunque era quasi profetico, no? Dell'ultimo album, che è stato fatto comunque nel 2017, già avevo previsto tutto questo. Sì, tutto praticamente. Sarà più o meno che comunque in quei periodi mi sono pure trovato nel terremoto, quando è successo il terremoto in Abruzzo, quindi ho avvertito questo senso di distopico o comunque di cataclisma che mi circondava, perché quando puoi respiri un cataclisma sulla tua pelle, avverti proprio la catastrofe imminente, come quello che vivono oggi in Ucraina. Non è una cosa che può essere presente o futuro, non possiamo mai prevedere quello che ci accadrà, capito? Perché sono terremoti dello settimo grado e tanto è, quello spara, quindi il futuro è imprevedibile, ciò dobbiamo battere sul presente. Quello che avevo scritto, purtroppo avevo fatto Atmosfera Z, sì, e guarda caso Z è il numero, è il nome che... Poi avevo parlato di contaminazione, l'ultimo uomo della terra, di guerra, anche la copertina del disco comunque era tutta una città distrutta. Sembrava Mariupol praticamente. Bravo, bravo, perché purtroppo diciamo l'artista, tra virgolette, percepisce queste cose nell'aria. Quindi io quando scrivo, pure specialmente non ho dei riferimenti, non scrivo molto di pensiero, nel senso di scrivere, ma scrivo molto a quello che mi sento, quindi se c'è una cosa che mi circonda, diciamo, nell'aria, la capto, e quelli erano messaggi che mi arrivavano dal cosmo profondo, anche brutti. Infatti adesso mi pento di aver pensato quelle cose. Io ti pensavo in continuazione, quindi, in questo periodo. Mo da oggi in poi devo fare i pezzi, le cagate, canzone d'amore. Speriamo che vinci, hanno gratta e vinci. Sì, sì. Perché questo è il rap. Il rap è anche profezia, perché a volte quello che tu scrivi e dici si può avverare. Io ho nominato città, per esempio, da Calcutta a Rancitelli, in CD Rom, quando feci il pezzo CD Rom, sì, che nominavo Calcutta. Io poi, 7-8 anni dopo, dove mi sono ritrovato? A Calcutta. Tra tante città del mondo mi sono ritrovato a Calcutta. Perché la parola comunque è energia. In principio fu il verbo, come è scritto anche nella Bibbia. E quindi l'energia, la parola, anche il fatto di scrivere è molto potente e è anche un atto magico il fatto di scrivere con la penna su carta, e questa è una cosa che comunque verrà eliminata. La scrittura, fra un po' di anni, con l'avvento dei telefoni, dei tablet, stanno sempre più levando la scrittura. La scrittura è importantissima perché mantiene un contatto con noi stessi, col nostro inconscio. Scrittura è magia, quello che tu scrivi si avvera, quello che tu scrivi con il cuore, che ti arriva nei tuoi pensieri, e metterlo su carta è un atto di forza, di scrittura. Invece questo pure, cioè nella nuova tecnologia comunque frenetica e dello scrivere sempre, si perde proprio la manualità e l'atto dello scrivere proprio con la penna e con la carta. Questa è una cosa che io ho vissuto, perché io comunque vengo da una generazione che metà della mia vita l'ho fatta senza telefonino, e metà di tutti i dischi cose ho scritto carta e penna, tuttora scrivo carta e penna. Andrea, però io che ti conosco da tanti anni, ebbene, io penso che e sono una persona un po' più materialista, e ti dico che tu hai anche delle esperienze, poi parleremo anche della tua militanza, però in questo momento in cui c'è la guerra, tutto il resto, tu sei stato tra i pochi italiani ad andare in Iraq, e vogliamo che tu ci racconti questo, prima della guerra in Iraq, sì. e questa secondo me è anche uno dei motivi perché hai una certa sensibilità per certi argomenti. Tu sei stato tra i pochi italiani che è stato tra gli ultimi italiani ad andare in Iraq prima che scoppiasse la guerra. Puoi raccontarci questa cosa, sì, perché in questo momento è importante. Sì. Novembre 2002, Cuba, nord dell'Iraq. In una terra bollente, sotto il sole splendente, a tamburo battente, tra pacifica gente, un tappeto a centrocampo, allo stadio di Bakuba, sono molto più tranquillo che a casa di Cuba, si viene e si va, file di ombre muovono su una scacchiera fatta di giorno e di notti, spinte alla cieca quella, da forze difficili a capire, al buio costruisce, alla luce distrugge, non c'è male, non c'è bene, tutto funziona alla perfezione, fuori dai colori dell'ignoranza, basto l'ingegno a legittimare una sana follia, grande l'impegno a tenere il controllo. Controllo della normalità, fabbricanti di morte, produttori di paura, inquinamenti, addomesticatori di genti, occupando la storia, cancellando la memoria. Vedere con i propri occhi quello che realmente succede, informazione capovolta dichiarata in fede, come colombe dal cielo bombe, sottoterra tombe, mille e una notte di fuoco, riprendo il senso dell'orientamento a poco, lacrime di madri dal volto coperto, lacrime di madri dal volto scoperto, con il cuore pieno di deserto, per questo motivo diserto, quanto è buona l'umanità, quanto è brava l'umanità, granate dall'alto di spiritualità, sparpagliate nel sangue degli imprigionati in città, imprenditori del terrore. In giro, con questo metto il piombo a filo, bufere sciroccanti come fezze in faccia, accumulando tante storie e poche ricchezze. Ora posso dirti meglio nulla tenente che sottotenente. Tesori di materia, tesori della memoria, da Pescara a Babilonia, guarda come si ripete la storia. Ogni mondo è palese, di onori e di offese, questo è quello che succede dentro un mese. Dimmi per chi e contro chi combatti, tanti saluti, omaggio ai caduti. Tutto va bene se bambini vengono bombardati, tutto va male se una nazione piange a lutto i propri soldati. Si sentono tutti dalla parte dei giusti, venite che ce n'è per tutti i gusti. Primi piani del dolore per aumentare l'ascolto, gocce di lacrime in un mare di affari sporchi. Produttori di tritolo che si stupiscono del botto, greggio in cambio di coraggio, in oleosa salsa di morte. Libertà mano armata, democratici, fucili automatici, sceneggiate. Imparata nel mondo nuovo, blindato e terrorizzato. Una giusta e sana guerra, spettacolarizzante, per dar lavoro a tanta gente. Politica, informazione, contingente. Ora il tappeto inizia a volare, portandomi a sapere quello che avrei dovuto soltanto guardare. Cuba. Cuba. America. Everybody come on. Fuck Bush e facciano. Io sono stato 3 volte a suonare in Iraq. La prima volta ho suonato a Babilonia, a Babel. La seconda volta a Baghdad. Sono stato sempre ospite del governo iracheno. No, queste sono cose vere, cioè qua non stiamo raccontando barzellette, voglio dire a chi ci ascolta. Sono stato ospite del governo iracheno, quindi era tutto. Cioè, comunque noi anche andare là non era come un concerto normale in Italia o in Europa. Io ho dovuto fare i visti all'ambasciata irachena a Roma, era tutto, se tenevo il lascia passare scritto proprio in arabo da Saddam Hussein, passavo tutti i checkpoint. Ho suonato a Babilonia, proprio Babilonia antica, a Babel, che sta vicino a Fallujah a sud, quindi là avevi proprio la sensazione di ritornare indietro nel tempo, proprio tempi biblici, risperavi quest'aria, capito? E poi soprattutto mi accorsi là le prime volte come i mass media comunque manipolano l'informazione, cioè comunque facendo credere là i terroristi, che capite, l'ISI, talebani, le cose, capito? Ma alla fine chi è il vero terrorista? Io sono stato pure ospite dei sufi. I sufi a Baghdad mi dissero: il terrorismo non è una nostra parola, non fa parte del nostro vocabolario. Terrorismo è una parola occidentale, certo. Noi non siamo terroristi. E questo ti fa capire che ogni popolo poi alla fine è uguale. Io sono stato accolto molto bene dagli iracheni, dal popolo iracheno, anche uniti dal rap, ci stavano i ragazzi che facevano rap, certo. Erano tutti uniti, non c'era questa cosa che perché ero occidentale mi dovevano tagliare la gola, anzi sono stato molto trattato pure meglio. Io mi ricordo. Cioè, pure meglio, perché là comunque l'artista o il musicista che ha a che fare con la musica è considerato un intimo di Allah. È vicino, cioè è nella società, ha un ruolo importante, mentre qua in Italia, in Occidente, dice quelle fa la musica, quelle capite? Oh, a fine siete stati tu e Battiato, fa la musica, capite? Un po' considerato, dice vabbò, questi, capite, fricchetto fa la musica, invece là fare musica è, sei un uomo di rispetto, come qua tra virgolette si può vedere un notaio, un dottore, un chirurgo, cioè buongiorno. Ti ricordi Battiato a Baghdad come fu accolto, come profeta praticamente, poi lui ne aveva tutte le caratteristiche, perché appunto anche nell'abito del sufismo comunque chi ha a che fare con la musica è un tramite tra la sfera spirituale e la sfera umana che sta sulla terra. Ma tu lì l'ultimo concerto che hai fatto, poi scoppiò la guerra, perché tu sei andato là con un ponte per Baghdad, no? Cioè alla fine Io l'ultima volta che sono stato, diciamo, sono andato via 5 giorni prima ci fu l'attacco degli americani a Baghdad, quindi mi sono salvato pelo tra virgolette, perché poi là capisci e respiri la guerra, perché io sono stato là in una Baghdad fiorente, il mercato, il traffico, poi 2 giorni dopo esci e trovi tutto deserto, le strade deserte, tutta la gente che guarda il cielo per paura di attacchi. E anche là i prezzi iniziano a salire, tipo un gippone perché io ripartivo dalla Siria, da Damasco, perché a Baghdad non c'erano gli aerei perché c'era l'embargo americano, quindi noi partivamo dalla Siria, 1000 chilometri di deserto, e un Toyota, quei gipponi, quei famosi gipponi Toyota che costavano $100 in tempo di guerra, che la guerra era imminente, tipo in 5-6 ore già il prezzo era triplicato, c'erano file, la gente scappava, e anche là ti accorgi che chi c'ha i soldi si salva, certo. Ma chi non c'ha niente rimane là sotto come le bombe. Come oggi in Ucraina, chi ha le possibilità prende un furgoncino, una maga e scappa, ma chi non c'ha i mezzi rimane là e rimane sotto le bombe. Questo è anche un privilegio, capito, dell'occidentale di scappare oppure di tornare nella sua patria. Ma molti questi privilegi non ce l'hanno e devono rimanere là sotto le bombe. Quindi noi adesso accogliamo gli ucraini come vittime della guerra, e ben venga, ma le guerre non c'è solo queste, le guerre ci stanno. Pure gli iracheni scappavano, pure i siriani scappavano, pure i palestinesi scappavano, perché sono sotto guerra. anche se i mass media non lo fanno sapere sempre, cioè non la pubblicizzano come questa guerra, perché comunque dietro ogni guerra ci sono interessi economici, principalmente per la vendita delle armi. Una guerra fa comodo a tutti, come ha fatto comodo agli americani. Adesso gli americani criticano, vabbè, Putin perché sgancia bomba al fosforo, ma loro sono stati i primi a sganciare bomba al fosforo su Fallujah. Certo. Quindi questa cosa di chi è il terrorista è una domanda molto grande. È sempre l'imperialista il vero terrorista, sì, lo sappiamo. Sì. Invece, proprio su questo, io... Molti mi si chiederanno com'è che il Pane delle Rose intervista Cuba Cabala, Andrea Martelli. Ricordiamo che Andrea Martelli è un mio paesano, noi siamo abruzzesi e siamo due antifascisti abruzzesi, figli della Brigata Maiella. E vogliamo parlare anche del tuo, insomma, il tuo impegno politico in quello che tu scrivi, perché tu oltre a parlare di queste cose qui parli anche molto di quello che accade in Italia, ma non solo, in tutto il mondo. E tu sei un punto di riferimento per gli antifa abruzzesi. Sì, diciamo che anche a livello internazionale poi è stata fatta una connessione che fa parte di rap militante internazionale, di cui facevano parte i parigini, spagnoli, gente di Berlino, i greci. Io sono stato pure in Grecia varie volte a suonare, a Atene, a Salonicco, proprio perché era un rap comunque militante che accomunava il nostro discorso, che noi fondamentalmente... Io non sono nato come cantante o artista, diciamo che io esprimo le mie idee attraverso il rap, non sono proprio un vero musicista, un vero artista, come si può definire oggi. E quindi il rap è stato il mezzo per parlare, per dire le mie idee fondamentalmente. Cioè c'è chi usa i fucili e chi usa la parola. Cioè, e comunque in Abruzzo abbiamo fatto tante battaglie insieme, sì, tutti, sì. Sei anche conosciuto per le battaglie che hai fatto sull'ambiente, per la protezione, sì, dell'ambiente, ci siamo visti diverse manifestazioni. Io penso che abbiamo a cuore entrambi la nostra terra. Sì, perché poi dietro a queste cose purtroppo ci stanno sempre interessi economici, e dietro i grandi interessi economici chi fa le spese è sempre la povera gente, che chi li costruiscono, capito, un gasdotto a 10 metri dalla casa, chi gli fanno un pozzo petrolifero di fronte alla casa, quindi ognuno è danneggiato, e quindi ci sono i pro e i contro di questa globalizzazione tra virgolette. Però chi ne fa le spese, chi paga le spese di queste decisioni poi dal basso, perché c'è gente che ci arricchisce, gente si arricchisce con la guerra, ma c'è gente che muore con la guerra. A morire non sono mai i generali o gli industriali o gli oligarchi o la gente che te ne frega di soldi. Chi ci armette è sempre la povera gente, e così in tutto il mondo, in tutte le parti del mondo, dalla Palestina al Sud America, a tutte le parti. Per questo che ti abbiamo intervistato, Andrea, perché la pensiamo come te. Ci vuoi dare una parola di speranza per il nostro Abruzzo, per l'Italia, per il mondo, secondo te? Purtroppo questi sono, oggi il tempo è più veloce, nel giro di 2-3 anni abbiamo avuto pandemie, guerre, tutto succede più veloce, e quindi c'è un adattamento, la gente fa fatica ad adattarsi a questo mondo di cataclisma, anche il pianeta, il surriscaldamento, tutte queste tematiche. Quindi non vorrei dire come Greta Thunberg. Greta Thunberg e il bla bla bla, però il bla bla bla esiste, perché comunque parlano, ma alla fine siamo come a 20 anni fa, 30 anni fa. Le guerre ci sta sempre, la Palestina sempre quella, Israele, capito, che attacca e mena i bambini, cioè arresta i bambini sulla striscia di Gaza, capito? Questo forse i mass media non lo parlano, perché i mass media comunque forse ancora oggi più di prima sono connessi con questa, diciamo, lobby di potere che comunque decide le sorti dell'umanità. Noi speriamo che il Pane delle Rose abbia molta fiducia nei lavoratori. Io spero che i lavoratori di tutto il mondo comincino a svegliarsi e non adattarsi a quello che sta succedendo. Sì, ma, sì. Speriamo di reagire. Oggi c'è stata una grande manifestazione a Firenze, oggi è il 26 marzo, stiamo intervistando Andrea. Sì, perché per me, per esempio, io, diciamo, io non lavoro, comunque lavoro, ma il mio lavoro è cosmico, il mio lavoro è informare, scienziato dell'informazione, quindi portare la verità, tra virgolette, o comunque portare coscienza, prendere coscienza anche dei lavoratori, anche di quelli che a Pisa caricano le armi, travestiti da aiuti umanitari, perché l'operaio, comunque il lavoro è la prima linea, perché se si blocca quello, i ricchi non diventano ricchi senza gli operai. Se gli operai bloccano tutto, bloccano anche i grandi, bloccano anche i circuiti grandi, e quindi è questa la coscienza. Sì, ci si può perdere soldi, ci si può perdere, purtroppo noi siamo tenuti al guinzaglio dal fatto dei soldi, perché le bollette la paga, la benzina la mette, la spesa la fa, quindi siamo ricattati col lavoro. Oggi per me il lavoro è il ricatto, perché come ti dicevo prima, quando andai in Iraq, che io ero un musicista, la gente mi trattava come un notaio, cioè come, cazzo, tu sei importante nella società, perché tu porti coscienza, la musicalità, la spiritualità, con la musica, la cosa. Il lavoro non è schiavitù, non è costruire le piramidi per il re. E l'operaio deve distruggere i mattoni della piramide di Ra. Grazie del tuo messaggio, siamo d'accordo con te e distruggeremo sta cazzo di piramide del padrone. André, adesso ci sentiamo al tuo concerto, il Pane Rosa metterà sempre la tua musica, lo sai, perché sei un compagno, sei un fratello, sei un paesano. Va bene, dai, ci vediamo dopo, grande, voglio. Ciao, ciao. Andate e ritorno, peggio di un brutto sogno, abuso e bisogno. C'è una minaccia rilevata nella tua città, una paura angosciante, niente fa gamba. Sarà sta sozza società, sarà come un labirinto, hardcore convinto, sotto vuoto spingo. Antico germe di Gerusalemme, dove c'è la mela buona c'è il verme. Non si vince, non si perde, tutto crede, tutto vende, ma c'è chi comprende e qui non s'arrende. Come vuoti a perdere, che non sanno a chi credere, seriamente come i pazzi, lentamente fanno a pezzi. Scendi sotto, brucia tutto, monoblocco, tutto rotto, per le strade di un sentiero ormai distrutto, batte il cuore dei dannati e fanno brutto. Scendi sotto, brucia tutto, monoblocco, tutto rotto, per le strade di un sentiero ormai distrutto, batte il cuore dei dannati e fanno brutto. Apri di cielo, regime clandestino, piove il veleno, guida il destino. Lo scopo vostro, col sangue nostro, vite sotto ricatto segnate col bollino rosso. Futuro a ore contate, se vali meno di quattro banconote. Stile sincero, divido impero, greggi umani vaganti senza meta, ridotti all'osso, aspettano l'offerta. Tra le pieghe delle crepe della terra, brucano la guerra, coi cuori rapiti, martirio di tempi infiniti. Quando informo gli inganni, nella conta dei danni, sotto le torri dei padroni, gli schiavi danzanti, scendi sotto.